140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie e il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. La vittoria a Sanremo, un nuovo singolo con Vasco, per gli stadio un bel momento. Gaetano Curreri ci racconta un'estate caldissima. Devo dire che siamo dei diesel, se ci raffreddiamo, poi capito, facciamo molta più fatica a partire. Quindi insomma, noi dobbiamo essere sempre belli caldi per poter sempre tenere una buona temperatura. E sì, è una bella estate, è un'estate anche piena di grandi soddisfazioni, perché insomma la vittoria di Sanremo ci ha dato quel qualcosa in più di considerazione da parte di un pubblico che forse era un pochino più distratto nei nostri confronti. Invece adesso c'è tutta una considerazione, che è una considerazione molto, molto bella, molto vera, molto intensa, molto curiosa anche. È stata una canzone che non solo ci ha fatto vincere Sanremo, ma ci ha dato soddisfazione dal punto di vista umano. Padri che mi ringraziano perché hanno ricevuto un messaggino di una figlia che era un po' di tempo che non sentivano, perché avevano avuto una figlia che mi ha detto sai che adesso forse ho capito anche alcune cose di mio padre che sul momento mi erano sembrate delle cose che non volevo vedere, non volevo capire, adesso è una canzone, come diceva Roberto Roversi, che era un grande poeta, era un grande intellettuale, un grande uomo di cuore, mi diceva: vedi, una canzone non potrà certo cambiare il mondo, però una buona canzone può migliorarlo. Ma che sensazioni ti vengono alla mente quando ripensi a quella notte? La confusione, la telefonata di Vasco, che era a Los Angeles, e che da là dice, aveva una forza nella voce ed era felice come ero felice io. Un giorno mi direi che un uomo ti ha lasciata e che non sai più come fare a respirare, a continuare a vivere. Io ti dirò che un uomo può anche sbagliare, lo sai, si può sbagliare, lo sai, ma che sera vero amore è stato meglio comunque viverlo. Ma tu non mi ascolterai, già so che tu non mi capirai. Visto che hai citato Vasco, ti chiedo di Tutti contro tutti, perché Tutti contro tutti è un pezzo che è stato un po' una sorpresa. Com'è andata questa storia con Vasco? No, è stato un gioco, come spesso accade fra noi due. Noi siamo due amici che si divertono molto a giocare, e a giocare con la musica è la cosa più semplice che ci viene. C'è gente che vanno sui campi da golf per sfidarsi, noi ci sfidiamo invece con la cosa che sappiamo fare meglio, la musica o a tennis. Noi non siamo né tennisti né golfisti, siamo musicisti. E allora sì, così gli avevo chiesto di venire in studio. Vieni in studio, dai, così mi dai una mano per le parole, ci sono delle parole, lui è bravissimo a cambiarti le parole e far suonare meglio una parola rispetto a un'altra. Lui in questo è veramente fantastico, ha una capacità di far suonare la lingua italiana come se fosse l'inglese. Vasco è bravissimo. E allora io l'avevo messo lì, ce l'ho messo io a sedere sul divano, poi ascoltava, poi a un certo punto vedo che si alza, io lo addocchiavo, ha aperto la vetrata che divideva la sala regia con la sala di ripresa, e poi è arrivato e mi cantava nell'orecchio: non c'è più vergogna, hai le spalle al muro. A un certo punto ho fatto un passo indietro, lui ne ha fatti due avanti e ha cantato tutto il ritornello come lo doveva cantare lui, perché quella parte lì parla di meritocrazia. Le persone devono andare avanti, i più bravi, non i più furbi, e la dimostrazione di questo è vivente, è lui, la sua forza, quello che lo fa ancora essere, e per quanto tempo lo sarà ancora, la più grande rockstar, l'uomo che, dove la gente si radunano 220.000 allo Stadio Olimpico per andare a sentirlo, è perché è una persona coerente, onesta, che non ti fregherà mai, è una persona che è una persona che ha fatto della sua vita e della narrazione di se stesso, di quello che gli passa per la testa, la narrazione di mille pensieri, di mille disagi che vivono nelle persone, l'ha sempre fatto coerentemente, mai fregando nessuno, nessun altro più di lui può dire quella cosa. Come dire, può succedere questo nella vita, ma non lo devi far passare sta cosa, che vince il più furbo e non vince il più bravo, perché sennò non va bene. Tutti contro tutti, tutti contro tutti, belli contro brutti, belli contro brutti, alti contro bassi, bassi, bassi, bassi, magri contro grassi, grassi, grassi, non c'è più vergogna, hai le spalle al muro, non vince più bravo, ma il più furbo di sicuro. Bisognerebbe scoppiare rivoluzione, o che almeno tornasse la buona educazione. Poi ha fatto anche il video, eh? Questa cosa è il video, perché lì con l'incontro con Fabio Masi, che è stato meraviglioso, perché gli ha fatto fare questa parte del colonnello Kurz di Apocalypse Now, che era perfetto nel video, perché a un certo punto compare lui come dire: oh, attenzione che qua scoppia la guerra, se no o la rivoluzione o ritorno alla buona educazione, questo non c'è altre possibilità. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Gaetano Curreri. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.